Cantieri di Carità e Giustizia. C'è molto da raccontare in questo progetto voluto dal Vescovo Claudio, ormai un progetto che compie un anno perché fu annunciato in occasione della festa di Sant'Antonio del 2016. Abbiamo già raccontato la settimana scorsa della mappa che si trova pubblicata sul secondo opuscolo diffuso in questi mesi. Ma come si agisce a contrasto della povertà in città di Padova? Perché questo progetto è incentrato esclusivamente sulla città di Padova. Un primo aspetto da considerare è se l'organizzazione 75, quelle che hanno collaborato a questa mappatura, se questa organizzazione opera a contrasto della povertà attraverso attività che sono a diretto contatto delle persone e o in supporto ad altre organizzazioni. L'80% agisce direttamente con le persone che sono in disagio economico. Poche, solo il 5%, operano esclusivamente a supporto di altre organizzazioni, magari più strutturate come Caritas, Cucine Economiche Popolari, Comunità di Sant'Egidio, Croce Rossa. Il 12% contrasta la povertà sia direttamente che indirettamente. Ai fini della mappatura sono stati individuati 18 possibili tipi di interventi caratterizzati da elementi di complessità differenziati. Si va da quelli a bassa complessità, quindi l'ascolto, l'informazione, l'accompagnamento, la distribuzione di beni di prima necessità, i viveri, il vestiario, i farmaci, il servizio mensa, gli interventi di assistenza economica, a quelli di complessità media, ricerca e offerta alloggio, tutela del lavoro, sostegno psicologico, consulenza legale, assistenza sanitaria, fino agli interventi che presuppongono una maggiore complessità, l'accoglienza diurna, notturna, l'accoglienza per 24 ore, per diversi giorni poi evidentemente, l'educazione, la formazione, l'integrazione, la socializzazione, il sostegno al lavoro. Si va da un massimo di 13 tipologie a una, però quasi tutte le organizzazioni erogano almeno due tipi di intervento tra questi, e tra quelli realizzati prevalgono l'ascolto. L'80% delle organizzazioni si dedica proprio a questo, ad ascoltare i poveri, a distribuire beni di prima necessità, a dare aiuti economici, a fornire informazioni e ad accompagnare. In misura minore si occupano di educazione, di formazione, di mensa, di integrazione, sostegno al lavoro. In generale prevale un aiuto che agisce con interventi poco complessi, perché in questo modo si risponde al bisogno immediato, mentre si incide meno sull'accompagnare verso la fuoriuscita dalla condizione di bisogno, ed è probabilmente uno degli aspetti maggiori che questo progetto certamente evidenzia, ma che vuole superare. Per ogni tipologia di intervento sono stati approfonditi alcuni aspetti legati a come vengono erogati questi servizi, cioè se c'è continuità o occasionalità durante l'anno, come vi si accede, liberamente senza alcun vincolo oppure verificando una o più condizioni, e dove viene erogato il servizio, nella sede dell'organizzazione, al domicilio delle persone aiutate oppure in altri luoghi. Ebbene, il 79% degli interventi vengono erogati in modo continuativo, in particolare l'accoglienza diurna sulle 24 ore, tutela lavoro, distribuzione di beni prima necessità e ascolto. Solo il 21%, che comunque è una quota importante, sono interventi occasionali. Le tipologie di intervento con la più alta percentuale tra quelli occasionali riguardano la ricerca offerta di alloggio, il sostegno psicologico, l'assistenza economica, l'assistenza sanitaria, la tutela del lavoro e l'accompagnamento verso altri servizi. In circa metà dei casi, il 52%, l'accesso agli interventi di aiuto è libero, soprattutto per informazione, consulenza, accompagnamento. Il restante 48% ha invece bisogno della verifica dell'effettivo bisogno. Questo vale prevalentemente per l'assistenza sanitaria, per l'accoglienza nelle 24 ore, per la ricerca offerta di alloggio, per l'accoglienza diurna notturna, per la distribuzione di beni di prima necessità e per gli interventi di assistenza economica. Gli interventi vengono erogati nella maggior parte dei casi, circa due terzi, presso la sede dell'organizzazione e in misura minore invece presso il domicilio della persona aiutata e in altri luoghi, in particolare l'assistenza sanitaria e la consulenza legale. Rispetto all'immaginazione grave, nel 2015 il Comune di Padova ha sostenuto una spesa di oltre 4 milioni di euro, dando aiuto a quasi 24.000 persone. A queste, oltre al supporto del servizio sociale professionale, sono stati garantiti interventi di integrazione sociale, interventi educativi e assistenziali per l'inserimento lavorativo, l'assistenza domiciliare, l'igiene personale, l'accoglienza notturna, i contributi economici. Nello stesso anno 2015, alle famiglie con minorenni in condizione di disagio economico sono stati erogati contributi a integrazione del reddito per oltre 500.000 di euro, più di 1.200 le famiglie coinvolte. Anche l'anno scorso, 2016, a Padova è stato realizzato il progetto regionale RIA, Reddito di Inclusione Attiva, che prevede, a seconda dei destinatari, interventi di sostegno o di inserimento lavorativo, e hanno beneficiato di questo RIA 74 persone per quello di sostegno e 68 diverse persone per quello di inserimento. E questo è un altro capitolo, insomma, che abbiamo sviluppato in questo progetto Cantieri di Carità e Giustizia, con le capacità e i talenti a servizio della povertà. E nella prossima tappa, fra 7 giorni, cercheremo di capire il profilo delle persone che vengono aiutate. Cantieri di Carità e Giustizia.